anch'io CD. Sì, modulazione normale, già va bene. Quello vuole stretto bene, ha una rottura di scatole fare quei piedi grossi di capito. Però devi stringere bene con la pinza, quando esce il puntale fuori, allora lo saldi, se no ti gioca e non fa contatto, capito? Va bene che va bene. No, mi ero qua ascoltando. No. Non c'è nessuno dato un colpo di importante, no? Adesso ancora un pochino poi me ne esco a portare il cane, sembra che sia abbassato sto cavolo di sciocco, visto il casino che ha fatto, roba la mattina, allora, ho lavato la macchina, la 147 lucida era, tutta piena di fango, cosa, eh. Vabbè, domani mattina vado a mia genera, faccio la sciacquata. Sì, fango, io ho passato la scopa nel buongiorno e ho tolto una paletta di terra rossa proprio, una paletta di terra, e poi mia moglie ha lavato per terra, proprio fango, vabbè, ha tirato forte, ieri, oggi, io sciocco, ma stamattina era, caspita, un bel forte, vabbè, almeno non c'era freddo, ma se non pioveva era meglio, almeno evitava di, almeno entra un po' di lavoro ai lavaggisti, io ho contato poco fa perché è un paio di settimane che non stavo usando il 440, quindi ho commutato adesso, sì, è molto bella, mi sono ascoltato, bellissimo, poi adesso c'è tutta la potenza, finalmente mi sono messo, ho fatto quello che dovevo fare, no, nessun problema, bellissimo, c'è 25 watt, tutto regolabile, una bella radio. Ehi, ne ho avuto offerte per quella radio io, però non l'ho mai data e non la darò mai, perché è impossibile trovarla e poi se la fanno pagare una barca di soldi, capito? E quindi me la tengo, funziona perfettamente, nuova e tutte cose. Se vuole faccio la foto e gliela mando a tuo figlio, intanto ce l'ho su WhatsApp a lui. Aspetta che vengo qua, metto se no fa rientro. Allora, questo è il DAC, potenza 25 watt, ok? Sì, al DAC sei leggermente oltre il 9+10, oltre il 9+10, come mi arrivi col K? Va benissimo, alla grande, già, alla grande. Sì, ma ci vuole sempre, quando vai fuori così, io sono sempre a base magnetica, cambio il baracchino delle V e delle U, e me lo porto quando proprio sono, vado fuori sede, capito? Non si sa mai che appunto non prenda il telefono e hai sempre un mezzo di comunicazione. Quindi va bene. Sì, l'ho regolata con Roberto proprio ieri, se stavi ascoltando, sia come tonalità che come densità di modulazione, come tutto. Almeno la uso ogni tanto, tanto c'è il commutatore sulla T230 e il commuto le radio che mi interessano e ci ho messo anche questa. Almeno la facciamo andare già, capito? Ho capito, sì, beh, puoi farlo anche così, ne metti un goccettino di stagno, qualcosa, e già va bene lo stesso. Va benissimo alla grande, almeno fa contatto e non hai problemi, diciamo, dai. Va bene, ok. Per il resto, quindi sei rientrato al lavoro oggi e tutte cose. No, io non ne ho approfittato nel periodo delle feste e non ne sto approfittando neanche adesso. Va bene così, perché adesso poi che non lavoro, che sono più a casa, non voglio diventare una botte, capito? Le cose normali, le cose che insomma si facevano prima, però con molta più attenzione, perché prima magari bruciavi durante il giorno, adesso invece sono molto a casa e quindi va bene così. Stamattina sono uscito a fare un giretto, ho fatto colazione, poi mi ha chiamato mia moglie andare al mercatino, sono andato al mercatino, ho passeggiato, ho preso un po' di frutta, verdura, queste cose, e me ne sono rientrato a casa già. Sono tutto il giorno a casa, anche perché c'era sto vento maledetto, quindi no, non avevo voglia di stare in giro, tutto qua. No, ormai infatti non conviene stare lì appresso a queste cose. Io qualche cosettina me la sono fatta, ma grazie a Dio la radio ce li ho tutti a posto, quindi no, non ho nessuna, mi ho sistemato un po' questa, che è un baracchino, quindi facile da controllare, e basta, ho già, e se no ti viene assolutamente. Vabbè, per fare le cose bisogna essere preparati e avere la strumentazione. Se poi devi fare due fesserie, due regolazioni, va anche bene, ma mettere le mani dentro il radio o lo sai fare o non lo sai fare, altrimenti fai pasticci. E poi io sono sempre del parere che ci vuole la strumentazione per fare le cose, non è che puoi andare lì, questo non è, poi vai a toccare tutto ed è un casino, assolutamente, capito? No, io qua la valvola non, diciamo che era completamente esaurita, me l'hanno fatta, gliel'ho messa, pulita tutto, ho tolto anche gli altri, tutte pulite con l'alcol, i piedini eccetera, tutti i piedini e tutte cose, e niente, ho rimesso la valvola, ho dato una pulitina, ho acceso, ho lasciato accesa tutta la notte praticamente, e la mattina sono andato a parlare, ho visto la potenza, regolava da 5 watt, 4 watt e mezzo sino a 25 watt, e così sta uscendo, 25 watt con la T230, non fa niente, perché allora rischia la 20, ma lo supera, 25 watt, 25, 28 watt, va più che bene, dai, rispetto a prima è tornata alla normalità. E la radio poi gli ho messo l'MB più 5, ho fatto regolazioni con Roberto ieri, mi ha detto lasciala così perché mi ha controllato con l'esattore, e la radio va più che bene, proprio alla grande. Brecco. Registrato il break. Non me l'aveva dato Antonello, me la valvola. Me l'aveva dato Antonello, capito, che gli ha dato Mario. Quello lì, Mario Chine. E quello ce n'è un sacco di valvole, di cose vecchie, anche perché lui praticamente aveva un laboratorio dove vendeva valvole, molto amico di Fusaro, sia di Vittorio che dell'altro che a Cagliari, capito? Avanti Breck, Robert Ripit. Sì, ciao Claudio, ciao Gianni, ben sentite, c'è qualche altro? No. Ma cosa stai uscendo? Sempre col DAC. Cacchio, ma lo sai che così ormai non si sente la differenza dalle 4.40, ero convinto che fossi col 4.40. No, sempre col DAC, infatti poco fa stavo uscendo col 4.40 e Gianni mi ha detto fammelo sentire perché ti ho sentito ieri, è favoloso. No, sto andando con quello. Sto andando con quello lì a potenza alta, come hai detto tu, lo lascio stare così. Almeno lo uso, Robert, almeno adesso è a posto e lo posso usare, capito? Quel lavoro che abbiamo fatto stamattina, spettacolare, perfetta, l'ho provata là sotto casa, sento il ben di Dio. Adesso me l'ho messa in macchina, quando poi metto qualche cosettina almeno c'ho l'antenna, capito Robert? E è bella perché è compatta, non è di barrasone. No, va benissimo, sia da una parte che dall'altra, ottimo lavoro, ottimo. Fa bene massa, bella, nuova, sacco PL, già va bene. Le prendi i capri per Roberto? Sì, grazie, te le ricambi a te e tutta la tua famiglia e i tuoi cari. Una domanda, visto che stavate parlando di valvole e cose del genere, che tu forse ce lo potresti avere, non è che c'hai tu, Gianni, non so se sai cos'è il Variac, per variare la tensione devo far funzionare qualche radio antica di quelle anteguerra, dai, a valvole, però vi voglio dare la tensione piano piano in modo che non scoppino i condensatori, non è che ce n'è per caso da prestare? Sì, forse ho sentito qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare. Forse era, non so, qualcosa. Vai, riprendi qua. Sì, va benissimo il discorso, Gianni. No, io ho lasciato un attimo di bianco, ma no, non ho sentito nessuno, non lo so. Sì, sì, quello lì ne ha un bel, se quello di Antonello mi dà anche, mi procura anche gli altri, hai capito, ne ha di valore. Aspetta Robè, ma io va. No, non mi voglio mettere le cuffie, ma davvero si assomiglia tantissimo, esce bene quindi come radio. Questo leggendo qua, in assoluto è, secondo me il DAC di tutti i baracchini che ho sentito è il numero uno, non ne abbiamo sentito decine, però non ce n'è per nessuno, a parte che c'ha un suono molto caldo, nel senso molto fedele come, come cosa. Le tonalità, se dovessi capitare qua ti faccio sentire, vabbè sentire, dovrei fare il video e te lo mando via WhatsApp e ti faccio vedere con l'analizzatore di spettro e mi dirai facciamo le prove con qualunque baracchino se c'è qualche qualcuno che si assomiglia, c'hai tutte le tonalità bellissime. E presente non lo stai sfruttando come lo dovresti sfruttare con un suo microfono di qualità, per dire se ci metti un tanner guai con l'apparato. No, no, no, lo sto sfruttando con l'MV5 perché il tanner l'avevo dato a Gavino, quello di Porotolese, poi non so che fine abbia fatto quel microfono. E quindi ho l'MV5, vabbè la mia modulazione è questa, va bene, certo non è un microfono d'alta qualità, però si sta difendendo molto bene, anche con gli altri, col Superstar, col 48, con insomma. Va benissimo, anche col Galaxy, va molto bene l'MV5. Qualità prezzo è un microfono dai che ti consente di andare benino, non dico bene bene, ma benino sì. Va bene, va bene. No, sono contento perché ero da tantissimo tempo che non usavo questo baracco. Ed è veramente un peccato. L'accendevo ogni tanto, ma non lo usavo perché c'era 3 watt e mezzo, 4 watt. Adesso la potenza è veramente al top, 25 watt modulati, quindi insomma ti consente di farti sentire come cristiani, dai. Vai Gianni. Sì, sì, ma anche con lo Shure l'ho sentito con l'apparato, ma col tanner sicuramente è quello che si adatta meglio di tutto. Sì, sì, ma l'ho avuto la Static, io l'ho avuto, il Sadelta, Static, ho avuto tanti microfoni, l'ho dato anche uno a Roberto, mi pareva, un SBE, ne ho avuto tantissimi microfoni, tantissimi, ma io ce l'ho il Turner, però il Turner più 2, ma è della linea Lecraft, e quindi c'ha il connettore a jack, capito, non mi va di fare adattatori e balle, va bene così, va bene così, se poi capita che c'è qualche Turner in vendita, glielo compro, glielo metto, però non quello nero, il Turner quello grigio, versione americana originale. Magari domani mi attacco al computer e vedo un po' se lo trovo, me lo prendo e glielo metto. Ma Robert, non pensare che la differenza sia tanta, lo sai, io spingo molto di corde vocali, quindi qualsiasi microfono va più che bene con i baracchini. No, è ottima, niente da dire, però sto dicendo, se vuoi togliere ancora proprio il pelo all'uovo, gli metti un tanner ed è una bomba più forte. Sì, vabbè, anche esteticamente è un microfono americano, quindi vabbè, però è giusto per non avere altre cose in mezzo ai piedi, mi Robè. Già c'è uno spaziettino dedicato solo a questa radio e quindi la usiamo così, dai. Già va bene, già va bene. Riprendi già, dammi un secondo che è arrivata mia figlia che mi sembra mi debba dire qualcosa, riprendo subito, riprendi già. No, ma io c'ho il ricevitore, non è un trasmettitore. Ehi, per quello te lo sto dicendo, stavo parlando proprio ieri con Claudio, ma lui ha detto non è sicuro che funzioni senza l'abbinamento del trasmettitore, niente ne sai se funziona direttamente alimentato. Sì, sì, no, lo so benissimo, poi tutti gli apparati americani, la maggior parte, non che non siano anche venduti in Europa, sono tutti a 110, infatti i Royce, cioè il trasformatore, lo porta a 110, sono arrivato a Torino, poco fa la GBC, gli ho detto se ne aveva un altro di questi trasformatori, mi ha detto ma che potenza c'ha, gli ho detto ma ci saranno almeno un centinaio di watt, ci vogliono come alimentazione, però provo con l'altro, allora volevo solo capire, perché Claudio non era sicuro, se funzionasse separatamente, cioè solo come ricevitore. Meglio così. Qui te l'ho mandato. Adesso mando la foto. Almeno se lo vede acceso e si vede anche il segnale che sta arrivando il Capri. 9:20 sì. Già. Ok, va bene, dai, io sono entrato perché vado a portare il bimbo a passeggio. a mio nipotino, a Filippo, vado a portarlo a passeggio, dai, se no poi si fa tardi, eccetera. Ha abbassato anche un pochino il vento, ma comunque sempre, sempre fastidioso. Se ci siete, ci sentiamo dopo, ok? Riprendi, Roberto. Sì, l'ho visto, è quello che guardavo ieri su coso, su YouTube, preciso identico. Però quello che c'è da questo c'ha gli strumenti azzurri, c'ha la lucettina azzurra, ma sono identici, non so poi se cambi qualcosa a livello di qualità, di prestazioni, però era identico, bellissimo, guarda, per me è il più bel baracchino che esiste. Sì, sì, non lo so, io questo è il 10, Mark 10, l'altro non lo so, tu metto il 9, evidentemente sono uguali, ma no, questo è così originale, ti ho detto, non, le luci devono essere bianche, non blu, sicuramente le avrà messe lui blu, originale, queste sono bianche, sono a siluro, e si tolgono i tappi degli strumenti e sotto c'è la lampadinetta. Sono originali a siluro, questo è tutto originale, no, non è stato toccato assolutamente niente, Robert, capito? No, no, è bellissimo. Come si chiama? L'altoparlante ce l'ha sopra poi. No, l'altoparlante ce l'ha al fianco del cassone, al fianco destro ce l'ha. Cos'è questo? Sto guardando questo tasto, c'è scritto transmit e standby, perché lo puoi tenere standby questo? No, vabbè, questo ce l'ha al fianco originale, l'ho anche controllato, ce l'ha solo polvere pulita, c'è una bellissima eccezione. Sì, vabbè, quando lo accendi lo devi lasciare in stand-by in modo che le valvole le valvole finali vadano, rimangano in stand-by. Poi una volta passato un pochino, insomma qualche minuto, lo va in trasmissione, ma non le fa niente anche se lo tiri in stand-by, non succede niente. È una bella radio, bellissima radio. Va bene ragazzi, dai, fatevi buon questo, se ci siete ci sentiamo dopo, io vado a portare a Filippo a fare due passi. Le prendi, Capri? Dato che c'è quanta gente, quanti vecchi CB, vecchi datomatori, vecchi laboratori, che chissà quante cose c'hanno, e noi non sappiamo. C'è una persona, un radioamatore che è morto, adesso non mi ricordo il nome, che è molto amica, la moglie di un amico mio, un radioamatore, che c'ha tutta la roba, la mette tutta in garage con degli scatole, ma c'ha un sacco di roba questo qua. E le ha chiesta, poi si è messa in mezzo altra gente, ha detto, beh, fa la cosetta, lasciamo stare tutto lì e nessuno tocca niente. Come? Cos'hai detto, Gianni? Sì, di nome, non personalmente, però so chi è. È molto da poco quello. Dietro la standa. Boh, non ci ho mai fatto caso. L'unica antenna su c'era coso, come si chiama, professor Affanna, poi Raffaele, quello che c'è via Duca degli Abruzzi, come si chiama? No, Raffaele, professore, ci avrà più di 80 anni quest'uomo, uno dei primi radioamatori, la CV doppia però lui. Angus. Antonio si chiama, non Raffaele, Raffaele Lumbau, ed era lì dove c'è la standa, sì. Picca, che cos'è? Il segreto di Puccini? Non lo so, boh. Ma è mio, stai dicendo? HT46. No, è ricevitore questo. Ah no, no, c'è ragione tu, c'è l'ingresso microfonico qua. Sì, c'è ragione, mi sembrava, siccome ho visto un jack, mi sembrava la presa per la cuffia, invece è la presa per il microfono quello. Guarda, se qualcuno vuole il trasmettitore a fare scambio, mi dà il ricevitore, io gli do il trasmettitore. Eia. No, no, non l'ho ancora provato, non so neanche se funziona. Quello è tutto a valvole, quell'apparecchio. No, no, quando c'ho tempo lo provo a accendere. Quello che voglio dire è totalmente a valvole quello, solo lo stadio finale a valvole. E anche qua bisogna stare attenti, allora, accendendo. E chissà da quanto è fermo, io ce l'avrò un anno che me l'ha dato Claudio. E figurati poi da quanto sarà fermo quello. Quasi 9.20, con i picchiari da 9.20. Ma che apparecchio è quello? Quanti ne stai dando? Quanto ne stai dando? Quanti watt usciva con la stufa? E lì c'è invece di 10 punti S, da 9,20 quasi sei quasi a 9,10. Già lo so. E rimanata, ma il 44 ancora ce l'hai. Che vuoi? Non lo stai usando però. Secondo me non lo uso. E io a me adesso devo accendere, che sono un po' il coso, il patch, che sono l'apparecchio che non lo faccio andare. Un attimo il telefono, scusami. Vieni. No, adesso provo, aspetta un secondino, giro un attimino, tanto lo solo commutare. Guarda un po' adesso. Allora 1, 2, 3 prova radio, questo apparato è fermo da tantissimo tempo, è un patch base 81-93, canale 10, stazionarie sono a 1 e 2 perché c'è anche l'indicatore, potenza stiamo parlando, penso con le metri 3000 di picchi c'ha 10 watt questo apparato. Ma mi stai ascoltando? Stavo parlando, forse mi hai parlato sopra. Dimmi una cosa, il segnale è molto si è abbassato? La radio com'è, chiara? No, questo è un tunnel di microfono, vediamo se sono tutto al massimo come livello microfonico, sì, dovrei essere al massimo. Ah no, non sono al massimo, scusa. È troppo bassa la radio per te. Tale più te, ma posso sollevare, guarda, sto sollevando ancora, va bene così. Non so, questa sarà 2 o 3 anni dentro qua la batteria, infatti la dovrò sostituire. E allora aspetta 2 secondini che vado, aspetta, faccio una prova così. Guarda se succede qualcosa. Cos'è successo? Prova a cambiare la batteria, aspettami 5 minuti, rimane in linea. Ci sei Gianni? 1, 2, 3 prova radio, sta funzionando? Ma posso salire io a livello microfonico, guarda, sto salendo. 1, 2, 3 prova radio. Sì, sì, sicuramente. Questa batteria era scarica, era 7 volte c'erano, figura di garantire che non per forza non funzionava. Questa che ho messo non sono sicuro che sia nuova, però dovrebbe funzionare. Allora, adesso ho messo, siccome c'avevo uno di quei beta detector, c'erano 3 batterie che le avevo messe da poco nuove, però siccome l'ho usata, adesso le verifico in diretta. Allora, questa c'ha quasi 9 volte, 8,70. Ci sono ancora, sto uscendo? Allora, sono le MT3000, ti ho detto che l'ho buscata anche le MT3000, che è entrato un fulmine, avevo conosciuto l'inventore delle MT3000, Daniele Frignani, che è un genio dell'elettronica. Sì, si sente bene? Guarda, è un baracchino, guarda, l'effetto del patch, lo sai cos'è? La ricezione è molto rumorosa, per dire se ci sono segnali troppo forti, Satura deve abbassare l'RFG, però in trasmissione c'è una bella radio, me l'hanno detto tutti quanti, tipo anche la 48 ce l'ho io, che funziona più che bene. Questo però è un tanto le base, mi quello che sto usando io già. No, io baracchini in base, a me piacciono solo le base, di quelli veicolari ne ho diversi, ma ho tenuto solo la 48, che è un nuovo, ce l'ho qua. Nel coso, nella stazione. Poi c'ho il più bello di tutti, è il Multicom 497 della Intec. Penso che sia il miglior baracchino omologato, che è il più completo di tutti. Questo c'ha tutto, le cose possibili e immaginabili, perché c'ha la tastiera, è un computer quello lì. Il miglior baracchino, parliamo di nuova generazione, non stiamo parlando di cose vecchie, perché c'ha tutto l'impossibile quel baracchino. C'ha tutto le bande, clarifer, bande laterali, modulometro, c'ha il display a cristalli, quel bellissimo baracchino, è più grande di un... di larghezza è più grande di un 4,40, sì, più o meno come 4,40 però un po' più basso, ma c'è una ricezione, al 140 se lo caga 10 volte, solo il 4,40 riceve meglio di quello, poi è silenzio, l'unica cosa è che è troppo stretto di modulazione, c'ha la modulazione è una mezza cagata, non è bella, è tutto originale, è mai stato toccato, però c'ha una sensibilità molto migliore del 140. Sono rientrato? Sì, claro, vabbè, dovrei mandarla però non ho avuto tempo di niente, ho dei pezzi dello zigolo da fare. Aspetta, scusa un attimino, volevo chiedere qualcosa. Claudio, come sto uscendo di lì vicino a te? Bene, bene, infatti ho notato questa differenza di radio. No, no, bene, bene, va bene Roberto. Ma come livello microfonico com'è? Ma a livello microfonico come acustici è a posto, la tonalità medio-bassa sembra che vada bene. Tieni conto che insomma sto ricevendo col DAC, però la modulazione è buona, il segnale è quello tuo. No, voglio dire, troppo alto, va bene come livello. No, no, lasciala così che va bene. Perché poco fa c'avevo la batteria e scariche, non stavo amplificando, infatti mi ha detto Gianni solleva la giacca e non faceva niente, poi guardate la batteria era completamente scarica. Figurati, c'è scritto 04-2011 questa batteria dovevi usarla, cacchio, fate un gol. Così è, le batterie vanno cambiate. Io infatti per questo qua, vabbè, non ne consuma molto, però per questo qua ce l'ho già di scorta, non so mai, perché questo è lo stesso dell'anno scorso. L'anno scorso, non nel 2017 che è appena passato, ma nel 2016 la batteria, perché ce lo scrivo anche io col pennarello, capite? Quindi fra un po' anche questa bisognerà cambiarla. Sì. E Gianni, tu quello che ti ho dato io è, va benissimo, è il console 2 è eccezionale. Sì, è simile al console 1, solo che c'è il frontale è diverso. E vanno bene. Guarda, se avessi avuto spazio, ne ho, ma non la voglio impegnare la stanza perché non mi va. E quindi ho lasciato solo il DAC operativo, ma già lo sai quanto ne avevo io, quanto te ne ho dato, erano tutti per terra perché no, non avevo posto. Una parte li ho dati anche a Roberto, tante cose ho dato perché non ho posto da impegnare, capito? Perché altrimenti non ci stanno gli HF, un casino. E quindi il DAC, che è bello anche esteticamente, che sembra un amplificatore, l'ho messo a fine linea proprio degli HF, non disturba e va bene, capito già. Riprendi Robert. Adesso sono con il 44. E un'altra gubba, Dimmi una cosa, quello la ricatto che stavo parlando ieri, Flacco, che mi hai dato tu, è un trasmettitore, non è un ricevitore. Ah, il trasmettitore quello è. Ah, ecco perché io lo accendevo e non ricevevo, è il trasmettitore. Quello è il trasmettitore, infatti ti ho detto, cerca di procurarti il ricevitore, l'avevo detto anche a Gianni, se me lo procurava, però non c'era scritto. Allora io infatti avevo trovato in continente uno che stava vendendo la linea, ho detto ma io c'ho il trasmettitore, vediamo se mi dà il ricevitore come ti ho detto ieri, mi ha detto no assolutamente, poi io cosa me ne faccio del trasmettitore. E allora avevo preso tutta la linea completa, ricevitore, trasmettitore e il coso, e Gianni mi aveva dato il microfono, capito? Quindi lì se si riesce a trovare il ricevitore è una bella linea, tenendo conto, Robè, che la mia io l'accendo ma i segnali sono bassi perché le valvole sono andate a farsi fottere anche quelle, come quando avevo la linea Drake, lo stesso, non l'accendevo mai, alla fine accendeva ma non c'era manco QRM, capito? Quindi è roba da vetrina, o la usi e va bene, ma se non la usi Robè è un casino, capito? Sì, ma le valvole purtroppo sono così. No, se c'è qualcuno che vuole fare scambio, gli do il trasmettitore e mi dà il ricevitore, tanto a me non me la fottimo dal trasmettitore. Lo so. Io posso chiedere a come si chiama, il fratello di Vittorio di Fusaro, che ci conosciamo bene, infatti mi ha detto che le valvole me le portava lui anche per quella linea di Kraft da poco, dove ho preso quel connettore che ti ho fatto vedere stamattina, capito? C'era lui lì, che era da Cagliari, è sceso, e infatti gliel'ho detto, ma tanto volevo guardare da me a Cagliari, dovrei avere le valvole della linea di Kraft perché sono simili a quelle della Collins. Mi ha detto, se ce le ho te le mando dentro una busta, passi da qua, da Antonello lì e te le prendi, capito? E prova a chiedere se c'ha qualcosa da accoppiare come ricevitore lì, Roberto. Sì. Ma lì bisogna ci sia qualcuno che lo conosce, io lo conoscevo molto bene a lui, Ci parlavo anche quando ero proprio a zero con lui, però poi non, cioè della sua famiglia non conosco nessuno, se no me l'avrei fatto là. Ci vuole qualche aggancio, per vedere se ce l'ha, beh, me lo faccio dare al ricevitore, ci mancherebbe altro. E io? Allora ce lo porti ad Aredo, no? Allora, se ce l'ha, prendiglielo a Roberto, scusa, fatelo dare, intanto cosa se ne fatti? Capito? Perché se io le do il ricevitore a Roberto sfaso nuovamente la linea, quella linea se fratello Vittorio mi procura le valvole, gliele metto originali e l'accendo anche in ricezione, magari qualche passaggio di trasmissione lo faccio, capito già? Guarda, non lo so, no, io beh, quel trasmettitore che mi hai detto tu quando ho comprato poi la linea per intero, l'ho data a Roberto a mettere in vetrina, capito? E c'era lui quella che mi hai dato tu, ci mancherebbe altro. Il microfono ce l'ho io perché è di linea e l'ho lasciato qua, il Turner del 252, quello lì. Però il trasmettitore ce l'ha Roberto. Se riusciamo a procurarle il ricevitore, caspita, c'ha la linea, Roberto è appassionato di quelle cose, c'è un sacco di belle radio vintage, anche ne ho dato due io, il Sommercamp, il 101 Digital come ricevitore, gli ho dato il TS700, capito, ne hanno dato molto belle da vetrina. Riprendi Roberto? Il 711 poi ne era. 700, vabbè, lascia perdere, quello vabbè è un'altra cosa, ma quelle che ti ho dato io proprio a te, regalate, quelle sono radio belle che funzionano bene, capito? Se messi a posto, data una sistematina, sono belle radio. Sì, soprattutto il Sommercamp, vabbè, anche bello, anche il TS700 è una bella parata, però il Sommercamp lo voglio far funzionare, accendere, però non ho attaccato l'antenna, voglio vedere se funziona in ricezione. Se non funziona in ricezione, anche quello c'è la valvola esaurita, capito? C'è la valvola esaurita, bisogna fare un po' di manutenzione, vabbè. E io prima le accendevo spesso, capito? Poi mi ero rotto le scatole, non le accendevo più, anche perché sono tutte a 110, tranne il Sommercamp, gli altri sono a 110, capito? Vabbè, T700 non è a 220 lo stesso, e quindi non li accendo, però quelle che avevo io erano tutte a 110, e mi ero rotto le scatole di trasformatore a 110, ne avevo uno solo, tant'è vero adesso, infatti la linea Alicraft è sempre spenta perché il trasformatore a 110 l'ho messo sul DAC, però se capita, se lo trovo me ne prendo un altro, almeno tenerla accesa, capito? No, il coso accende, mi segue, lo faccio sentire pure, ci sente anche il fruscio. Questo è Sommercamp, solo che non ho il coso, voglio vedere con l'antenna se funziona, il fruscio si sente, però non so cosa succede. La burrotto già lo fa, il QRM si sente, però lo strumento è fermo. Vedi un po', attacca l'antenna e vedi se riceve. Se non riceve vuol dire che la valvola del ricevitore è andata, è come quella lì, come quella che mi aveva fatto la linea Drake, come questa, la Leecraft, eccetera. Sono cose belle da collezione, però se non le usi alla fine si guastano, capito? Avanti Capri, un altro pochino e poi ci andiamo a pappare, sono già le 8. Ma poi quella lì, il 46T, è a bande verticali, capito? Quindi anche un pochino difficile da usare rispetto alla linea Drake, rispetto ad altre radio valvolari HF. Quindi è molto bella anche da vedere, perché a bande verticali, insomma, molto bello. Guarda a vedere, Emilio Ottavio, se riesci a mettersi in contatto con i figli, che a Raffaele gli è rimasto il ricevitore, c'è la linea Roberto, perché io quella lì l'accendevo, però chiaramente non potevo andare in trasmissione perché non c'è il ricevitore, però ho visto la potenza, la lava, erano circa 200 watt, Roberto. Addirittura. Sì. Ma quello che a me mi sta facendo vedere i dubbi, questo digita, l'FR101. E tu sei sicuro che ha un vago? Il wattimetro, ho capito, il wattimetro cioè, molto, molto preciso anche. E quando schiacciavo la portante, la lasciavo scaldare, con il preselettore andavo a mettere la frequenza, dava circa 200 watt di portante. Quindi penso che sia quella la potenza, ma ti parlo di tanti anni fa. Adesso bisogna vedere in che condizioni sono le valvole, se li dà ancora, non lo so. Però digli a Ottavio, se riesci a procurargli il ricevitore, così Roberto c'ha la linea di quello. Claudio, oh, quella che sta parlando. Ho capito, sì, ma il cavetto, quello del trasformatore a 110, non lo so. Come faccio a metterlo sulla linea di cazzo? Dimmi Roberto. Oh, che mi stai facendo venire i dubbi. Questo Sommercamp, il ricevitore, quello digital. Tu mi hai detto che è a valvole, ma a me mi pare strano, amico. No, è transitore, è come il DAC, è come il DAC. Come è tutto a transistor e c'ha la valvola del ricevitore a parte. Sì, sì, e l'ho aperto, lo vedo, nuovo dentro. Se tu lo apri è nuovissimo. È come il DAC, è tutto transistorizzato, c'è la valvola del trasmettitore. Capito? Ok, va bene. Oh, signori, io devo andare a mangiare adesso. Grazie della bella chiacchierata, allora avremo modo di risentirci. Ciao Claudio, ciao Gianni, questo è da parte mia. Ciao ciao. Ciao ciao ciao Robè, già ci sentiamo, dai, già ci vediamo di persona noi. Vai già. Ho capito, no, guarda che è ghiacciato, è come che non lo stia usando, anche dalla parte dove ci sono le valvole, perfetto, ha fatto un bellissimo lavoro, ma era sporchissimo dentro e ho già, te l'ho detto, non l'ho mai aperto, ci vuole mezz'ora aprirlo. Guarda, devi togliere tutte le viti davanti del frontale, dove sono le maniglie che agganciano il cassone, poi c'ha una decina di viti tutti sopra, né al lato, lo devi sfilare, devi stare anche attento perché c'è il coperchietto che praticamente cammina assieme al cassone delle valvole. E quindi hai detto mamma mia, rottura di balle. E quindi l'ho lasciato così. Poi l'altro giorno avevo voglia proprio di fare quelle giornate lì che stava piovendo, ero a casa, mi sono messo un tavolino piccolino del mare qua in stanza, perché posto non ne ho da appoggiarlo, e l'ho aperto, l'ho tutto pulito, soffiato, proprio faceva schifo dentro, ho proprio il polvere di lana, le valvole le ho tutte smontate, pulite con il coso, la tridina, ho pulito bene anche i piedini, tutto, poi ho messo la valvola nuova, ho lasciato tutto il giorno acceso praticamente, poi sono andato a provare, prima l'ho provato a potenza minima, piano piano, salendo, ho visto che arriva sino a 25 watt, 25, 28 modulati, dai, e l'ho lasciato così, e lo sto usando già, lo sto usando perché è una bella radio e la voglio usare, dai, non posso stare sempre con le stesse radio, ecco, tutto qua. Poi esce bene anche di modulazione, quindi ne approfitto e lo uso. Ah, ecco, quindi il cavetto che va attaccato praticamente al trasformatore a 110, è che attaccarlo al trasformatore, perché ne ho uno solo, lo attacco alla ciabatta e c'ho 110 lo stesso. Scappa una cosa quando se si conserva è a posto, ma se non si conserva, poi quando uno non c'è più va in mano a gente che non ne sa usare e fascia adulto, già, capito? Sì, diglielo, perché mi fa piacere se Roberto c'ha la linea, io non gliela posso dare, o gliela do tutta completa e ciccia, se no non gliela posso dare, non gliela posso dare sfasata, capito? Perché diversamente mi trovo con due trasmettitori e non me ne faccio niente. Comunque poi vedrò con Roberto, dai, che cosa fa. Va bene già, dai, che è tardi, io ti saluto, vado a mangiare, sono già le 8:15. Mi ha fatto piacere fare due chiacchiere, dai, almeno abbiamo passato una mezz'oretta. Ci sentiamo domani già, fatti sentire, dai, ci aggiorniamo domani. Ciao a tutti, anche quelli che sono in ascolto sul canale 10. Riprendi Gianni. D'accordo Gianni, a domani, ciao, buona cena.